Sta roba ti lascia come un gargoyle. Succo di zenzero quanto ne vuoi. Facciamo spesa tipo supermarket. Sto mescolando, diciamo a Pyrex. Non vesto Pyrex, non vesto Balas. Fendi Gucci o merda italiana. In cucina con un quarto di litro. Fumo ste canne e te ne lascio un tiro. Acquari, salotti, pomelli d'oro. Da Roma, centro ZTL. Non esco fuori, i miei pony express. Bianca cash oppure verde. Bianca cash oppure verde. Bianca cash oppure verde. Soldi in mano oppure niente. Soldi in mano oppure niente. Bianca cash oppure verde. Soldi in mano oppure niente. DPG Targang 777. Giuro che questa merda per sempre. L'aerion in alto alle stelle. Tu ci odi e non puoi vederci. Stiamo contando fagli colorati. Vuoi fermarci, non puoi farci niente. Bianca cash oppure verde. I soldi in mano oppure niente. DPG Targang 777. Giuro che questa merda per sempre. L'aerion in alto alle stelle. Tu ci odi e non puoi vederci. Stiamo contando fagli colorati. Vuoi fermarci, non puoi farci niente. Completo Adidas come se fossi un breakdance. Ho visto un po' troppe volte il padrino Scarface. Non sanno su più odiare, quindi scelgono la Dardiani. Vestito colorato, penso di essere un Power Ranger. Entro alla Dark House da una botta di Calvin Klein. Succo di zenzero, sto vomitando un arcobaleno. Con mio fratello Wayne contando yen all'aeroporto. Vestito bianco come se fossi un gelataio. Bianca cash oppure verde. I soldi in mano oppure niente. DPG Targang 777. Giuro che questa merda è per sempre. L'aerion in alto alle stelle. Tu ci odi e non puoi vederci. Stiamo contando fagli colorati. Vuoi fermarci, non puoi farci niente. Bianca cash oppure verde. I soldi in mano oppure niente. DPG Targang 777. Giuro che questa merda è per sempre. L'aerion in alto alle stelle. Tu ci odi e non puoi vederci. Stiamo contando fagli colorati. Vuoi fermarci, non puoi farci niente. Sick Luke, sick Luke.